L'idea è un'idea sicuramente irriverente, questo è chiaro, però la nostra idea è un'idea ironica. Noi abbiamo voluto ironizzare su, diciamo, gli ostacoli che oggi un tifoso è costretto a vivere per andare allo stadio. Detto questo, l'ostacolo non è scontrarci con la polizia, non è assolutamente questo che noi volevamo in qualche modo raccontare. Il gioco è molto semplice, a parte che andando sul nostro sito c'è anche il libretto di istruzioni, quindi chiunque lo può capire. Il gioco è la rappresentazione praticamente della trasferta, si gioca in una partita di andata, una partita di ritorno, una volta un giocatore gioca in casa, l'altra volta dopo gioca fuori casa, chi gioca fuori casa ha 6 pedine. Le nostre figurine che rappresentano i tifosi sono delle figurine molto ironiche, i tifosi vengono rappresentati in maniera assolutamente divertente, ce ne sono alcuni che hanno il pancione, non c'è un atteggiamento che vuole far trasparire la violenza, quindi ci sono queste 6 pedine che devono scegliere se fare la trasferta o in treno o se fare la trasferta con l'autostrada, con l'autobus. Lungo il percorso ci sono degli imprevisti che sono molto simili agli imprevisti del Monopoli, quindi sono delle carte che rappresentano delle varie penalità, saltare un turno, posare una bandiera. Tra le varie vicende quello che capita ovviamente è che se si incontrano sulla stessa casella le due tifoserie c'è lo scontro. Lo scontro avviene attraverso il dado, esattamente come avviene col risico. L'imprevisto in più che può capitare è che lungo il percorso ci sono delle caselle dove ci sono i cellerini, quindi se i tifosi giungono alla casella con il cellerino c'è lo scontro con il cellerino. Ma quello che vorrei sottolineare anche un po' per far capire, il cellerino non è visto come un elemento negativo. Il cellerino, se perde lo scontro, si elimina, non succede nient'altro.